La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme alla Rosa Purpurea, alla nostra ora di cinema settimanale. Un saluto da Franco D'Assisi, buon weekend, buon cinema, tanto cinema questo fine settimana, 10 nuovi film in sala, solita esagerazione distributiva nella quale poi diventa difficile districarsi, scegliere e capire cosa andare a vedere. Noi siamo qui per quello, provando proprio a darvi una guida, una mano nella scelta dei film. Ne abbiamo selezionati la metà, 4-5, che secondo noi vale la pena di vedere più di altri, sono più raggiungibili, più visibili di altri, e cominciamo quindi a metterli insieme, a darne un attimo un assaggio nei nostri titoli di testa. La nave della speranza approda sul grande schermo. Il documentario La nave dolce di Daniele Vicari ricostruisce con rari e potenti video d'epoca il viaggio della Vlora, la nave albanese arrivata a Bari stracarica di albanesi che sognavano l'Italia. Trovarono un paese diviso tra buona volontà e impreparazione. Il regista ospita la Rosa Purpurea. La crisi dell'ambasciata americana di Teheran nel 1979 rivive in Argo, il nuovo film diretto e interpretato da Ben Affleck. 400 giorni drammatici, 52 cittadini americani nelle mani di un paese ostile, 6 di loro che riescono a scappare e i servizi segreti che cercano di portarli fuori dall'Iran. Un thriller politico nella migliore tradizione del cinema civile americano. Di nuovo al cinema la coppia Castellitto-Mazzantini. Penelope Cruz ed Emily Hirsch, protagonisti di Venuto al mondo, storia d'amore e guerra sullo sfondo del conflitto della ex Jugoslavia. Sarajevo, luogo nodale per la ricerca della verità sui personaggi e della loro identità. Ennesima rivisitazione cinematografica del mito di Dracula, questa volta in chiave animata. Hotel Transilvania è la storia di un weekend mostruoso in un resort a 5 stelle, dove il re di tutti i vampiri porta a divertirsi mostri e freaks di tutti i generi, tra i quali Frankenstein, la mummia e i lupi mannari, per farli sentire finalmente se stessi. Bene, bene, allora cominciamo subito a buttarci in atmosfera d'animazione con Hotel Transilvania. Ormai è un dato, film di animazione, computer animation, anche in 3D, a volte in 3D, a volte no, ne arrivano praticamente tutte le settimane. È diventato un filone negli ultimi 10 anni che ha trasformato la sua essenza da intrattenimento per bambini a intrattenimento per la famiglia e a volte anche più per i grandi che per i bambini. Comunque sempre con un grande lavoro di sceneggiatura, di scultura dei personaggi, di rivisitazione di classici cinematografici, di clonazione di grandi personaggi del passato della settima arte. Questa volta tocca più o meno a Dracula, possiamo dire, nel senso che Hotel Transilvania racconta in chiave appunto animata questo grande personaggio che è un altro immortale, è proprio il caso di dirlo, del cinema, e che raccoglie anche la nuova ritrovata vena dei vampiri, che sembrano essere ridiventati uno dei temi dominanti del nostro cinema. Sta peraltro per uscire l'ultimo capitolo della saga di Twilight, come dire, è il momento giusto. Lo dirige Tartakovsky, Gennady Tartakovsky, che aveva già messo le mani su Star Wars La guerra dei cloni, insomma non si può parlare di vero e proprio esordio nel film di lungometraggio. Lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Beautiful maybe. With daddy you will stay, and if a human tries to harm you, I'll simply say... Avete appena sentito la ninna nanna di Dracula, il signore dei vampiri, la dedica all'unica figlia. Dal momento in cui è nata, ho voluto proteggere la mia piccola Mavis. Così ho creato l'Hotel Transilvania, dove tutti i mostri sono al sicuro. Da loro! Gli umani ci odiano, sono perfidi e urlano come pazzi! Solo mostri dunque in questo hotel California al contrario, che per Mavis è un po' come una prigione. Divenuta adulta, in termini vampireschi, vuole assaggiare la libertà. Voglio uscire, vedere il mondo! Ma sei troppo giovane! Ho 118 anni! Non fare la pipistrellina triste! Qui ci sono tutti i nostri amici mostri! La mummia, Wayne il lupo e farà un salto anche tuo zio Frank! Oltre agli invitati, però, c'è un ospite inatteso. Salve! Un umano! Come hai trovato questo posto? Ero andato ad arrampicare con gli amici e ho sentito parlare di un castello pazzesco. Oh, e tu come ti chiami? Mi chiamo Mavis. Mavis, sei innamorata di un umano! Riuscirà Dracula ad accettare la storia fra la figlia e il ragazzo dai capelli rossi? Ci metterà un po', lo travestirà da mostro, ma il finale è lieto, anche perché è difficile dire dove alberghi la vera mostruosità. Oramai non fare più ritorno. Un momento, non devo tornare all'hotel. Come? Ho appena usato i miei poteri per cancellarti la memoria. Ti ho guardato dritto negli occhi. Oh, forse sono le lenti a contatto. Cosa? Aspetta che provo a levarmele al volo. Oh, è la cosa più disgustosa che abbia mai visto. L'ho quasi presa. I thought I found a love, but she was just a fling. And then I met a girl, felt a different thing. It's like a hit in the ring, like a pull my string. Can't breathe like a joker. L'idea è originale, pur mettendo insieme i personaggi dell'horror classico, il tutto in forma di commedia, sia nella caricatura di mostri e umani, buoni i primi, crudeli i secondi, per cui si sorride molto, sia nel taglio adolescenziale di film di formazione, di ricerca della propria strada. Proprio dal rapporto genitori-figli è nato l'interesse del regista Jandy Tartakovsky, così lo ha spiegato al View Conference di Torino, il grande appuntamento con la transmedialità che si è appena svolto nel capoluogo piemontese. Un po' credo sia legato al fatto che ho tre figli e fa un po' paura vederli crescere e non sentirsi in grado di lasciarli andare via per essere indipendenti. È uno dei motivi per cui ho fatto questo film. È un'idea molto comprensibile per me. Dracula è un papà che non vuole che sua figlia diventi grande. Quando hai figli vuoi che restino piccoli per sempre e che non ti lascino. Oltre a questo, Tartakovsky, che viene dalle serie animate televisive, Star Wars, La guerra dei cloni, per citarne una, lavora molto su animazioni e organizzazione dell'inquadratura con stile. Le forme dei mostri sono tutte al posto giusto, fino a formare un incastro da puzzle con i fondali. Le voci di Dracula e figlia sono di Adam Sandler e Selena Gomez in originale, da noi Claudio Bisio e Cristiana Capotondi. In America è stato un successo al botteghino. In Italia arriva in un mese che vede Vampiri e colleghi farla da padroni sul grande schermo, dalla conclusione di Twilight al Dracula di Argento, passando per Paranorman e Paranormal. Speriamo non si confonda fra la folla. I primi a vederlo pare si siano divertiti. Ma l'idea di rappresentare dei mostri in forma simpatica, dai, carino. Beh, è molto carino, riprende un po' Piovono polpette come disegno e sì, ha una comicità abbastanza carina, una bella storia. Adatto a grandi e piccoli. Sì. A me mi è piaciuto quando ha finto di essere una zombie. La vampira che si chiama Mavis. Il conte Dracula. Perché? Ma era molto protettivo. Alla fine che i due ragazzi si baciavano. E allora questo era Hotel Transilvania, la prima proposta di questo fine settimana di Gennady Tartakovsky, che avete sentito con le sue dichiarazioni rilasciate al ViewFest di Torino. Sentiamo come vanno le cose sulle strade, tra poco torniamo insieme, andiamo alla uscita italiana più attesa di questo fine settimana, di questo periodo, il ritorno di Sergio Castellitto, ma anche in un certo senso di Margaret Mazzantini con Venuto al Mondo. La rosa purpurea. La voce di Adele, la canzone ormai successo in tutto il mondo di Skyfall, perché? Perché questo secondo blocco della Rosa Purpurea si apre con la classifica. È stato un botto clamoroso quello di Skyfall sul botteghino italiano, 6 milioni incassati nei primi 4 giorni di programmazione, 5 e 4 nel weekend, cifre da capogiro per il nuovo episodio della saga di 007, forse le più alte anche degli ultimi tempi per l'agente segreto al servizio di sua maestà, un film che tra l'altro ha accolto pareri critici unanimemente positivi e che evidentemente sta convincendo molto anche il pubblico. È primo in classifica di gran lunga Skyfall, in una classifica che vede segni di risveglio di tutto il sistema. Secondo posto per Viva l'Italia di Massimiliano Bruno, già arrivato a 3 milioni e 6 alla fine della scorsa settimana, della scorsa domenica. Al terzo posto Gladiatori di Roma, e anche qui siamo vicini ai 3 milioni complessivi. Addirittura ritorna quarto L'era glaciale, che è in giro da un po', ma che veleggia attraverso i 16-17 milioni di incasso globale. E via via gli altri, voglio segnalarvi Le Belve di Oliver Stone al quinto posto, Ted, l'assoluta sorpresa e fenomeno di questo periodo che ha superato i 10 milioni complessivi, e un buon andamento al settimo posto anche per Io e te di Bernardo Bertolucci. Un'occhiata alla classifica nella quale siamo sicuri di trovare abbastanza in alto, chissà in quale posto, ma abbastanza in alto lunedì prossimo anche Venuto al mondo, il nuovo lavoro di Sergio Castellitto tratto dal romanzo, lavorano sempre in coppia lui e Margaret Mazzantini, anche in questo caso è così. Sentiamone una clip, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Quella notte a casa di Goico? Sì. Sono rimasta incinta. Cristo santo, Gemma. E non me l'hai nemmeno detto. Un aborto spontaneo. Del cuore non ho mai sentito il battito. Abbiamo scelto questo dialogo, questa clip da Venuto al mondo perché, diciamo così, rappresenta abbastanza il clima tra il drammatico, il romantico, il sospiro di questo film e di questa storia. Sergio Castellitto rimette insieme alcuni dei suoi, diciamo, attori preferiti, a partire da Penelope Cruz, ci aggiunge un Emil Hirsch che comunque fa sempre locandina, c'è Pietro Castellitto, suo figlio. Insomma, è un film di squadra, come ama fare il regista romano, ancora una volta che prende le mosse da una storia molto letteraria, una storia incombente in un certo senso, che mischia anche la storia, quella con la S maiuscola, in questo caso quella della guerra nella ex Jugoslavia. È un ritorno al drammatico spinto da parte di Sergio Castellitto. Boris Sollazzo, ciao, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Operazione riuscita del tutto, riuscita in parte, come è andata? Operazione non riuscita, anche se sono molto curioso di scoprire quale sarà la reazione popolare, perché questo è un film molto particolare, è un film in cui si parla direttamente alle emotività della gente, in cui si rifiuta qualsiasi regola, come dire, etica ed estetica del cinema, per andare direttamente a colpire nello stomaco degli spettatori. È una storia carichissima di disgrazie. Penelope Cruz è una donna innamorata che vuole avere un figlio dal suo uomo, Emil Hirsch, come si intuiva dal trailer, è sterile. Questa ossessione la porterà fino a Sarajevo, che è anche il posto in cui è nato il loro amore. A Sarajevo la tragedia personale di Penelope Cruz diventerà la tragedia collettiva di un popolo. Io ho sempre amato la generosità registica di Castellitto, è uno che non si risparmia, uno che se deve mettere una scena in più la mette piuttosto che giocare di sottrazione. Qui però mi sembra che la sua regia già molto carica, il suo modo di raccontare già molto carico, arrivi su una storia ancora più carica, che è quella di Margaret Mazzantini, per creare un melodramma alla massima potenza. E poi mi sembra molto disarmonico narrativamente, non c'è mai equilibrio tra una parte e l'altra, non si riesce mai ad affezionarsi abbastanza a ognuno dei personaggi. Devo dire che c'è una cosa che mi è piaciuta, ed è il modo molto sensibile e delicato con cui ha tratteggiato la Sarajevo pre-guerra. Noi siamo abituati a pensare alla Bosnia e a Sarajevo come vittime sacrificali di una guerra ingiusta, e qui invece ci viene presentato la Sarajevo che era prima della guerra, cioè una città colta, divertita, divertente, gaudente, piena di arte e creatività, poi stuprata purtroppo da questa guerra massacrante. Ecco, in quello io ho visto Castellitto, in quel modo di vedere e di guardare Sarajevo ho visto il miglior Castellitto. Nel resto del film secondo me ci sono tante buone intenzioni ma poche buone intuizioni. Era questo il parere del nostro Boris Sollazzo rispetto a Venuto al mondo, che rimane comunque, come dire, il film sicuramente, almeno italiano, penso non solo di questa settimana, più atteso, sul quale si puntano più le attenzioni, anche non fosse altro per i tanti che hanno letto il libro e che aspettavano questo film da molto tempo, e anche per una presenza molto qualificata in termini attoriali, che sono appunto Emil Hirsch e Penelope Cruz nei ruoli di protagonista. Giochiamo insieme con la prima traccia misteriosa di oggi, sentiamo. Ho di che essere fiero della mia guardia. Testoni! Oh. Io vi porto una mamma per raccontarvi le fiabe. Una mamma? E voi volete ucciderla. Beh, insomma, siamo già stati molto generosi, molto molto generosi. Di che film si tratta? Scriveteci il titolo, scriveteci anche, come diciamo sempre, il vostro nome, cognome e indirizzo per agevolare poi le operazioni di spedizione del Blu-ray di questo film per chi sarà così bravo il sabato e la domenica per primo, ovviamente, da indovinare di che film si tratta. Più tardi noi vi daremo altre due tracce. Ok. Avete 6 persone nascoste in una città dove in 4 milioni cantano «Morte all'America» per tutto il santo giorno. In una settimana volete un film. Volete mentire a Hollywood, la città dove si mente per vivere. Poi far entrare 007 qui presente in un paese che beve sangue della CIA per colazione e far uscire la famiglia Brady dalla città più controllata del mondo. Passando sotto gli occhi della milizia all'aeroporto, esatto. Bravi. Sentite... Io ve lo dico, ho visto missioni suicida nell'esercito con più probabilità di riuscire. Beh, una delle clip più divertenti di Argo, il secondo film di cui vogliamo parlarvi, un altro film molto atteso, molto visto anche in America, perché siamo già intorno ai 75 milioni di incasso totale negli Stati Uniti, quindi sta andando molto forte, non ha perso molto dopo il primo weekend di programmazione. Il nuovo film che porta la firma di Ben Affleck, che si sta trasformando in un ottimo regista, tra l'altro, con un cast che va da John Goodman ad Alan Arkin, un cast di grandi attori che sono stati usati, visti molto spesso in ruoli quasi di caratteristi, comunque di spalle, ma sono quei volti che quando li vedi tutti insieme ti rendi conto che è 30 anni che li vedi sul grande schermo. La storia è quella della storia con la S maiuscola. 1979, la fuga negli Stati Uniti dello Shah Reza Pahlavi, iraniano, l'ambasciata americana di Teheran presa d'assalto dai rivoluzionari e i suoi impiegati sequestrati per più di un anno. Chi non ha 20 anni e ci sta ascoltando, che non ha più 20 anni, diciamo così, se lo ricorderà, fu una crisi internazionale di quelle che, insomma, solo in quegli anni si riuscivano a vivere. Allora il racconto di Ben Affleck si concentra su come i servizi segreti cercano di organizzare la fuoriuscita di un manipolo di questi ostaggi da un paese che, come avete sentito, era ostile in tutto e per tutto. Boris, dicevamo prima, Ben Affleck sta diventando forse più che il grande attore che in fondo forse non è mai riuscito a diventare, almeno in termini di popolarità assoluta, di essere un numero uno da locandina, sta diventando un regista molto molto interessante, inserendosi in un certo senso nella traccia del Robert Redford di 30 anni fa. Bravissimo, devo dire, siamo sinceri, è stato uno dei peggiori attori del dopoguerra come talento, diciamo, a mio parere la sua fama d'attore decisamente migliore del suo talento d'attore. E poi però ha preso la macchina da presa in mano ed è diventato uno dei giovani registi più interessanti degli ultimi anni. A mio parere, appunto, come dici tu, e in questo arco è evidentissimo, c'è molto del Robert Redford regista. E c'è anche una sorta di ricerca di arrivare a punte alla Eastwood, non l'ultimissimo, ma alla Eastwood regista. Ed è molto interessante perché era in qualche modo un solco che molti registi americani avevano abbandonato, questo di un cinema patriottico e allo stesso tempo critico. Non ricordo un film recente che fosse così benevolo alla fine verso la CIA, anche se non troppo. E come i registi americani classici, mi viene in mente anche Pollack, lui riesce a raccontare una storia importante per questi anni, perché voglio dire, quel 79 parla di una crisi America-Iran e in fondo ci troviamo nella stessa situazione, con una capacità di intrattenere il pubblico straordinaria, perché Argo è veramente un piccolo capolavoro di genere, una spy story come non ne vedevamo da un pezzo, in cui ti scopri a muoverti sulla poltrona quando ci sono i momenti di maggiore tensione, penso alla scena del mercato, alla scena dell'aeroporto, o in cui addirittura magari sei in apnea perché la tensione di una storia che comunque sai come andrà a finire ti prende e ti strappa via dal modo più critico, più analitico della visione. E, come hai detto tu, Arkin e Goodman sono straordinari. È straordinario anche l'uso che fa del suo amore per il cinema. Argo è un film di fantascienza, un finto film di fantascienza con cui appunto il vero agente della CIA ha ideato questa missione di salvataggio suicida, che poi è riuscita perché la storia è vera, e lui si diverte con lo storyboard, con il racconto della compravendita da parte di Alan Arkin da uno sceneggiatore di Hollywood di quarto ordine di questa sceneggiatura, anche insomma un po' a svelarci la parte meno nobile di Hollywood. Davvero un film molto bello a mio parere, un film old style ma con tanto ritmo. Sarà un piacere guardarlo sia per cinefili sia solo per appassionati, perché ci mancavano film così, e spero che Affleck ne faccia altri, come di fatto ha già fatto, perché poi il suo modo di raccontare è questo, molto, molto classico, e tra l'altro quando si dirige lui è pure un bravo attore, il che non guasta. Penseremmo di usare delle biciclette. Abbiamo identificato delle stradine nella zona di Shemiran, un paio di sentieri per le montagne fino al passaggio vicino a Tabriz. Le auto sono fuori discussione per via dei posti di blocco. Appena il tempo si rimetterà, consegneremo loro le 6 bici e gli forniremo le mappe per il confine turco. O se no, mandategli delle rotelline e aspettateli al confine col Gatorade. E allora lì nella regia, fra poco torniamo, dobbiamo parlare ancora di Red Lights e raccontare un bel documentario italiano, La nave dolce, con Daniele Vicari, nostro ospite, fra poco. La rosa purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, parliamo ancora di un film che esce in maniera abbastanza diffusa, massiccia, con un numero di copie importante. Stiamo parlando di Red Lights, di Rodrigo Cortés, che nel cast mette qualche nome non da poco, come quelli di Sigourney Weaver, Robert De Niro e Cillian Murphy. È un film che esplora in maniera un po' da commedia, diciamo, il mondo del paranormale. Allora sentiamone una clip e poi ne parliamo. Allora, che stiamo cercando? Luci rosse. Luci rosse? Note discordanti, cose che non dovrebbero esserci. Come quel tipo lì. Ehi, è quello laggiù? Bella presa. Allora, red light, luci rosse. Boris, cosa sono queste luci rosse? Cominciamo subito a spiegarlo. Le luci rosse sono appunto, come diceva il trailer, le note discordanti, cioè loro in qualche modo vedono attraverso la lente delle loro macchine fotografiche questi elementi di rappresentazioni pubbliche, di sensitivi che non tornano, quindi sostanzialmente i complici, i compari della maggior parte dei truffatori. Perché qual è la storia di Red Lights? È la storia di Sigourney Weaver e Cillian Murphy, che sono specializzati, Sigourney Weaver da 30 anni, Cillian Murphy da un paio, nello smascherare i truffatori. Sigourney Weaver in qualche modo lo fa per un ateismo convinto, anche di fronte al coma protratto per anni del figlio, forse per tenerlo in vita non vuole immaginare che ci sia qualcosa oltre la morte. Cillian Murphy, perché si intuisce che molto probabilmente la madre è morta a causa di un santone che gli aveva detto che il suo problema era solo una gastrite, e invece era un cancro allo stomaco. Il punto di partenza era anche interessante, perché poteva raccontarci una storia di credulità, di difficoltà, anche di un mondo che tende sempre più a credere a cose impossibili perché quelle possibili gli fanno paura. Di fatto poi, anche per la presenza del solito Robert De Niro, che purtroppo da 20 anni a questa parte, con pochissime eccezioni, non ne azzecca una e gigioneggia come un pazzo, diventa presto un circo abbastanza improbabile. Il film finisce di fatto quando esce di scena Sigourney Weaver e entra in scena lui, entra in scena Robert De Niro. Mi duole dirlo perché io ne sono un grande fan. Il vero punto debole di questo film rimane Robert De Niro, che insomma, quando non crede a un film si vede lontano un miglio. E allora, questo per quanto riguarda Red Lights. Grazie Boris, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te, alla prossima settimana. Ebbene, fra poco parliamo della Nave Dolce con Daniele Vicari. Giochiamo ancora insieme però con la seconda traccia del nostro game di oggi. Oh, andiamocene a caccia! Tigri? No, gli orsi! Orsi! Personalmente preferirei vedere i selvaggi. Certo, e Pelle Rossa! D'accordo, ma non catturati né più di due dozzine. E allora, di che film si tratta? Titolo, vostro nome, cognome, indirizzo, la rosa purpura @radio24.it per partecipare. E fra poco l'ultima possibilità. E allora adesso parliamo della Nave Dolce, lo abbiamo annunciato, con noi Daniele Vicari per parlare appunto di questo documentario presentato a Venezia. La storia, il nostro passato, c'è un momento, senza che noi ce ne accorgiamo tante volte, in cui si storicizza, cioè diventa storia. Allora, una cosa che sembra accaduta ieri, come l'arrivo, lo ricorderanno molti di voi, della nave Vlora nel porto di Bari, con questa nave stracarica, poi raccontata anche visivamente da Gianni Amelio nel suo film L'America, insomma, questa immagine, che è stata una delle più forti dell'inizio degli anni 90, sembrava ieri fino a poco tempo fa, adesso è diventata storia, e a farcene rendere conto ha contribuito anche questo bellissimo documentario di Daniele Vicari, visto appunto a Venezia, che si intitola La Nave Dolce. Daniele Vicari è con noi al telefono. Ciao Daniele, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ciao. Allora, dicevo, Daniele, una storia di 20 anni fa, che è diventata storia con la S maiuscola nel frattempo. Ci rendiamo conto della distanza del tempo vedendo il tuo film, ma ci rendiamo conto anche di come in realtà certe cose non siano tantissimo cambiate, quasi di come quella storia sia stata germinale, ai noi, per come questo paese ha trattato il tema dei flussi migratori di questi ultimi 20 anni. Sì, questo veramente non c'è dubbio. Temo che la vicenda della Vlora e il racconto che io propongo al pubblico di questa storia, temo che rimarrà attuale ancora per molto tempo, perché siamo, secondo me, all'inizio proprio di questi grandi sconvolgimenti portati dai flussi migratori, che sono sempre più forti e cospicui. Dobbiamo essere consapevoli che siamo appunto proprio ai prodromi di questa vicenda. L'arrivo della Vlora è stato il segnale di sveglia che ci è arrivato, no, dopo il crollo del muro di Berlino. È stato il nostro muro di Berlino. Allora, sentiamo un attimo una clip del film, poi ne parliamo. Qualcuno ci chiama, ci dice che il porto di Durazzo è aperto. E io ho seguito la folla, senza rendersi bene conto a quello che si andava incontro. In 10 minuti eravamo in 10.000. Mio marito mi chiede: ce la fai a salire con la corda? Sì. Noi vedevamo le TV italiane, tutti parlavano l'italiano, era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Abbiamo cominciato a gridare Italia. Italia, Italia. Facevano tutti il segno della vittoria e io pensavo: che cosa hanno vinto? Forse hanno vinto il viaggio di ritorno. Daniele, cosa avevano vinto le migliaia di persone accatastate su quella nave una volta toccato il porto di Bari e poi rinchiuse in maniera quasi cilena in uno stadio? Infatti noi ricordiamo, appunto, come dicevi benissimo tu prima, ricordiamo l'arrivo di questa nave, perché moltissimi italiani pensano che quei 20.000 albanesi furono accolti. E invece furono chiusi dentro questo stadio per giorni e giorni con i camion dell'esercito che attappavano le porte, e dentro quello stadio è successo di tutto. Per cui è una storia, è la storia della perdita di un'innocenza di due popoli, non di un solo popolo. Quello albanese, che, diciamo, ben rappresentato da questa immensa folla che arrivò a Bari, che pensava di poter guadagnare la libertà con molta più facilità di quello che invece gli era concesso, in qualche modo. E noi, anche il nostro popolo, pensava di essere popolo aperto, volto all'accoglienza, e invece ci scopriamo come non solo un popolo, ma un paese abbastanza refrattario ad aprirsi al mondo. Ecco, su quella nave, ed è una piccola sorpresa, anche se sono cose che si sanno, ma insomma vederli lì insieme a tanta gente, questo anche a rappresentare come c'era tutto il popolo albanese che voleva questa via d'uscita in quel momento, c'erano anche personaggi molto noti, diventati molto noti poi negli anni in Italia, come il ballerino Clea Di Cadio, che abbiamo visto spesso nei programmi, soprattutto di Mediaset, o il regista Robert Budina. Quanto ti sono stati utili nel coro di voci che hai raccolto questi racconti, fra virgolette, celebri? Beh, sono stati molto importanti, perché io non cercavo semplicemente delle persone che potessero testimoniare di essere lì, no? Ma io cercavo dei narratori, cioè delle persone in grado di raccontarsi e allo stesso tempo di raccontare quello che avevano vissuto, sia tra gli italiani che tra gli albanesi, no? Per cui ho fatto una scelta che normalmente in un documentario non si fa in questi termini, cioè ho scelto dei veri e propri narratori, ecco, di vari generi, di varie estrazioni sociali, di varie formazioni. E Clady e Robert sono due narratori straordinari, lo fanno con, diciamo, dal punto di vista artistico, ma lo fanno anche con la parola, no? Questo fa sì che lo spettatore entri nel film in prima persona, la sensazione, io volevo restituire una sensazione che ho vissuto io guardando quelle immagini, cioè la sensazione è che su quella nave potevo esserci anch'io in qualche modo. Allora questo fatto, questa capacità di narrazione da parte dei testimoni ti tira dentro il film. È una sensazione che ti assicuro arriva molto anche allo spettatore, è arrivata molto molto intensa anche a Venezia. Cosa ti aspetti da questo passaggio cinematografico? È il solito discorso, il cinema documentario italiano, quello di grande qualità come questo film, può incontrare il suo pubblico sul grande schermo, nella grande sala? Ma io da questo punto di vista non ho dubbi, siamo poco abituati, ma La Nave Dolce, così come altri documentari italiani degli ultimi 10 anni, hanno una forte caratteristica narrativa, a Venezia e anche adesso nelle prime proiezioni che sto presentando in giro per l'Italia, le persone escono dal cinema e dicono: ma sembra un film. Certo, è un film, c'è una narrazione stringente, quasi da thriller, no? E fa sì che tu non, guardandolo non rimpiangi l'assenza di attori più o meno famosi o di colpi di scena, perché ci sono, c'è tutto questo, c'è tutto quello che c'è in un colossal, diciamo, storico, solo che le immagini, anziché essere delle immagini ricostruite con una scenografia e su un set, sono immagini prese dal momento storico in cui quella cosa lì accade. E allora, grazie a Daniele Vicari. La Nave Dolce nei cinema italiani, andatelo a vedere, un ottimo, ottimo documentario su noi e su quello che siamo stati e siamo diventati su questo specifico tema negli ultimi 20 anni. Grazie ancora, Daniele. Grazie a te, Franco. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ebbene, allora, strada in diretta, la situazione del traffico, fra poco ancora insieme con Long Video. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte del nostro programma, dedicata come sempre ai film da vedere a casa con un DVD oppure recuperandoli nei tanti passaggi TV in chiaro e gratuiti sul digitale terrestre. E come sempre in quest'ultima vece noi troviamo guide davvero appropriate negli amici della redazione del settimanale Film TV. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Sono particolarmente orgoglioso delle nostre scelte di oggi, perché da una parte c'è un film che mi sta molto a cuore, un mio vero e proprio cult, dall'altra una coppia di film di formazione. Se uno vuole capire cos'è stato il cinema tedesco in quegli anni 70 e 80, lo capisce meglio guardando questi due film. Andiamo con ordine. Americani, Glengarry Glen Ross di James Foley, la vicenda, la figura archetipa del commesso viaggiatore la sua massima potenza. Giovedì su Rai Movie alle 21:15, Americani, tratto da una pièce teatrale di David Mamet, vincitrice del premio Pulitzer, mette in scena la lotta per la sopravvivenza degli impiegati di un'agenzia immobiliare che ha stabilito una soglia di produttività al di sotto della quale il licenziamento è immediato. Quindi abbiamo una vicenda veramente di darwinismo capitalista, piena di nevrosi, crudeltà, sgambetti, in un atroce gioco degli inganni che non risparmia a nessuno. È teatro filmato, ma nel senso più nobile, animato da un gioco d'attori veramente indimenticabili, dal Pacino a Jack Lemmon, da Alec Baldwin a Ed Harris, dalla Anakin a Kevin Spacey. E quanto mi manca David Mamet, che come regista di cinema negli ultimi anni abbiamo un pochino perso, anche se lui va avanti a fare commedie e drammi a Broadway e nei teatri americani con grandissimo successo, ma speriamo di rivederlo anche sul grande schermo. Americani però è diretto da James Foley ed è giovedì 15 novembre alle 21:15 su Rai Movie. Una doppietta di quelle che sono in grado, come dire, di mettere a dura prova lo spettatore medio, ma che vale davvero la pena di vedere, in questo caso visti gli orari di trasmissione, di registrare. La ballata di Strozek di Werner Herzog e Alice nella città di Wim Wenders, come dicevo, per capire cos'è stata l'importanza di un certo cinema tedesco. Venerdì su Rai 3 all'1.55 la ballata di Strozek e sabato su Rai 3 all'1.30 Alice nelle città. Sono le risposte del nuovo cinema tedesco, diciamo, al proliferare del road movie americano degli anni 70. Per Herzog il ritratto di un inferno interiore ed esteriore con attori non professionisti nei cui volti è addirittura difficile comprendere la linea che separa la finzione dalla realtà. È uno sguardo lucido e spietato nei confini della terra della possibilità, l'America, che però respinge gli emarginati. Un film assolutamente disperato ma purissimo. Invece Wenders ha un'opera maggiormente positiva, prima parte di una trilogia sul viaggio che contiene anche falso movimento nel corso del tempo, ed è un viaggio ovviamente esistenziale, tra i più esemplificativi della poetica di Wenders, dove quel che succede è nell'evoluzione silenziosa del rapporto tra un padre e una figlia ritrovata, e non in una trama svuotata e fatta di digressioni. E allora ricordiamo ancora gli appuntamenti: venerdì 16, 1.55 di notte su Rai 3, la ballata di Strozek di Herzog; sabato 17, 1.30, sempre su Rai 3, Wim Wenders con Alice nelle città. Grazie a Giulio San Giorgio. Grazie a te, Franco, e alla prossima settimana. E allora è arrivato il momento di giocare con la ultima clip nel nostro gioco di oggi. Quella di tagliarvi la mano fu soltanto una monelleria. Sì, ma poi la gettò al coccodrillo e quella bestiaccia trovò così saporita la mia carne che da allora non fa che corrermi dietro con l'acquolina in bocca per la voglia di tutto il resto. Beh, avremmo fatto prima dirvi il titolo con questa terza clip, ma la terza clip del nostro gioco è storicamente quella più facile, insomma, quella sulla quale chi non ha ancora proprio indovinato deve cimentarsi. La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta, con il vostro nome, cognome e indirizzo. Vi ricordo in palio un Blu-ray di questo film per il più bravo e veloce del sabato e della domenica. Adesso invece andiamo a risolvere il gioco di 7 giorni fa. Se dimagrisci anche solo di 3 etti, mi butto sotto un filo, boss. Allora, promettimi una cosa, una sola: che il giorno che non mi amerai più, non farai finta. Un film di culto per il nostro game della scorsa settimana. Si trattava di Il marito della parrucchiera. Ci siamo resi conto che non era facilissimo. Molti hanno partecipato, molti hanno sbagliato. Hanno indovinato per primi il sabato e la domenica Maurizio Politi di Perugia e Luigi Manfredi di Zelo Buon Persico, provincia di Lodi. Riceveranno l'edizione in DVD di questo film di Patrice Lecon con una straordinaria Anna Galliena. Claudio Poffi ce lo racconta. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, da Lucky Red, l'edizione solo DVD per il film di Patrice Leconte, ottima qualità d'immagine con una doppia traccia Dolby Digital, due canali, italiano e francese, sono entrambe di dignitosa resa. Purtroppo non ci sono extra. Non ci sono extra, ma c'è il film, che è davvero un film da rivedere, da riassaporare dopo tanti anni. Mantiene quella forza e anche quella capacità passionale, insomma, che aveva fatto diventare Anna Galliena in quel momento uno dei, anche dei sex symbol più desiderati davvero al mondo. Allora parliamo invece di altre due nuove uscite, cimentandoci con un genere sempre molto particolare, il cosiddetto heavy metal cinematografico, con un film che si intitola Hardware, metallo letale. Macchine da scrivere, strumenti audio, automobili a tonnellate e opere d'arte appese nei musei, che aspettano solamente di essere portate via. E poi vestiti, e parrucche, ponti di navi, denti finti, protesi per arti. Trovi tutto a New York, qualunque cosa. La grande mela sarà completamente deserta con il livello di radiazioni che c'è. Tutti quei rottami aspettano solamente noi. In un disastroso futuro in cui l'inquinamento della Terra ha raggiunto livelli di incredibile tossicità e imperversa una guerra, è florido il mercato di parti meccaniche come quelle recuperate da un rigattiere che ne fa dono alla fidanzata scultrice. Entrambi sono ignari che tale hardware è in realtà la componentistica principale di un robot militare che, dopo essersi autoriparato nella casa della donna, ingaggerà una mortale caccia all'uomo. Primo lungometraggio dal regista sudafricano Richard Stanley, che nel 1990 realizzò un cult ecologista a basso budget tra visioni apocalittiche e rimandi a opere di genere come Mad Max e Terminator. Nel cast ci sono Iggy Pop e il cantante di Motorhead. Difficile da reperire sul mercato audiovisivo, da CG Home Video, un'edizione addirittura alta definizione Blu-ray, di discreta qualità, però, e risoluzione inferiore a quella Full HD a cui si è abituati proprio con i Blu-ray. Precarie le tracce audio con Dolby Digital multicanale italiano e doppia traccia Dolby Digital due canali italiano e inglese. Come extra ci sono 5 scene inedite tagliate. Parliamo di chef invece, parliamo di cucina francese con il prossimo film, un film della scorsa stagione, Michel Youn e Jean Reno protagonisti di questo film, appunto Chef, commedia gastronomica semplice ma di una certa efficacia. Abbiamo bisogno di ingredienti che abbassino i prezzi dei nostri prodotti surgelati e dei piatti sottovuoto. E che c'entra con me? Servi tu per avere l'approvazione dalla commissione del ministero. Se lo chef di Cargolagarde utilizza certi prodotti, la otterremo. Pensi davvero che metterò merda nei miei piatti per compiacere i tuoi azionisti? Ma i miei chimici dicono tutti che non c'è pericolo. E molti grandi chef lavorano con le industrie. Ti sto chiedendo di rifletterci. Ci ho già riflettuto. Lo vedi? Tu non corrispondi più all'immagine del gruppo. Jackie sogna il grande ristorante, ma i suoi gusti troppo raffinati gli fanno perdere continuamente lavoro, costretto a ripiegare da cuoco in bianchino. Incontrerà casualmente Alexandre Lagarde, famoso chef in crisi di ispirazione, che si oppone all'idea di svendere la sua pregiata cucina. I due finiranno per fare coppia e risollevare le sorti del noto ristorante di Lagarde. Briosa commedia, mediamente speziata e condita di positività, con la partecipazione di un sempre ottimo Jean Reno. Da Videa, edizione DVD e Blu-ray, entrambi di ottima qualità, noi consigliamo come sempre l'alta definizione per un risultato d'eccellenza. C'è una doppia traccia DTS multicanale ad alta risoluzione italiana e francese. Come extra c'è un interessante making of di 30 minuti, ma attenzione perché è presente anche l'elenco completo delle ricette citate nel film. Beh, questo è un altro aspetto piuttosto interessante, potrebbe dare frutto a un post visione del film totalmente gastronomico. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata, non ci resta che ricordarvi come sempre la nostra pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace, entrate a far parte della nostra community che anima, vedo anche parecchi dibattiti durante la settimana dopo che i nostri ascoltatori vanno a vedere i film al cinema. È anche un modo per essere, rimanere informati in anticipo sui temi della trasmissione e poterla scaricare in podcast dal lunedì in poi. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, grazie a Peter Bescapè in regia, un saluto da Franco D'Assisti.